in primo piano. Buongiorno, buon mercoledì, primo mercoledì dell'anno da Giulia Crivelli e naturalmente ancora tanti auguri per questo anno che è appena iniziato. E noi cominciamo con le prime pagine dei giornali, come sempre dal Sole 24 Ore, anche se poi avremo il collegamento con Mauro Meazza che ci spiegherà meglio che cosa oggi vale la pena di leggere religiosamente o gli articoli da meditazione. Comunque, come sempre, il Sole 24 Ore è molto concreto, poca politica e molta economia e molta finanza. Il titolo principale è legato a una questione molto tecnica che però interessa a tutti, specie in questo momento in cui le banche sono al centro dell'attenzione, da una parte per i salvataggi pubblici che ci saranno, non solo quello di MPS, e dall'altra per il fatto che negli ultimi, in questo inizio d'anno, stanno anche trainando la borsa italiana, in particolare al rialzo. Quindi comunque questo titolo dà appunto da capire che cosa sta succedendo con queste nuove regole che si chiamano Basilea 4 e sono le nuove regole che devono essere applicate a tutte le banche europee, proprio perché la materia è estremamente complessa e già il numero 4 vi dà l'idea di comunque regole che si sono evolute nel tempo, forse diventando sempre più complesse. Queste regole slittano per quanto riguarda il capitale delle banche. Il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi è intervenuto dicendo: continuiamo comunque a lavorare per finalizzare queste riforme. Moltissimi i commenti, c'è poi anche un articolo che fa la cronaca di quello che è successo ieri alla borsa italiana, ma in generale sulle borse, con questo dato dell'euro che è scivolato sotto 1,04 dollari. Ricorderete, ci sono stati dei momenti negli anni scorsi in cui addirittura si è arrivati a 1,5, quindi anche il dollaro ha avuto veramente il suo otto volante, il cambio dollaro-euro in questi anni. Naturalmente moltissime analisi anche sui fatti politici di ieri, non che non ci sia la politica, anzi c'è un articolo di Paolo Pombeni che commenta le uscite di ieri di Beppe Grillo. E poi ho fatto due calcoli poi ve li dirò, già temo le reazioni, scherzo, non temo assolutamente, ma prevedo le reazioni dei nostri ascoltatori che votano per il Movimento 5 Stelle e che appunto sono spesso molto critici nel modo in cui a volte semplicemente si leggono i titoli dei giornali, e quello che ha detto ieri Beppe Grillo è molto legato alla questione dell'informazione. Un'ultima segnalazione dalla prima pagina del Sole 24 Ore, l'avete sentito anche nel GR, questa notizia che viene dagli Stati Uniti: la Ford taglia l'investimento in Messico, che era un investimento da 1,6 miliardi di dollari, per cambiare i piani, e anziché fare questo investimento in Messico lo farà negli Stati Uniti. E probabilmente proprio nel Michigan, in quello che una volta era la capitale americana dell'industria automobilistica. Corriere della Sera invece ha la fotonotizia dedicata a Trump, c'è un sostenitore di Trump che mostra il telefonino con una cover di Trump molto sorridente, e la questione è la stessa sollevata dal Sole 24 Ore: Trump vuole l'auto americana. Il titolo principale però è legato alla questione dei migranti. Un po' naturalmente c'è la cronaca, l'avete sentito di ieri con quello che è successo in Veneto, ma anche queste nuove regole che si stanno delineando per volere del nuovo ministro dell'interno Marco Minniti, che si è insediato in questo incarico, lo sapete, al posto di Alfano, che è diventato ministro degli esteri nel governo Gentiloni. In questo momento Minniti è a Tunisi perché si sta lavorando su quegli accordi per i rimpatri con i paesi di provenienza dei migranti, senza i quali non è possibile rimpatriare, appunto. Si possono fare dei proclami, ma senza questi accordi non è tecnicamente possibile. Ci lasciamo però un attimo per una prima pausa sul traffico, ci ritroviamo tra pochi secondi. In primo piano. Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli. Eccoli naturalmente i primi messaggi degli ascoltatori che votano per il Movimento 5 Stelle. Ce n'è uno particolarmente assurdo, che è: avete appena detto che le accuse di Grillo sono false e subito le confermate con informazione parziale, lecca C, in questo caso a tutela del C di un prefetto e di un ministro. Io davvero non riesco a capire questo modo di porsi e di fare delle critiche. In ogni caso è naturalmente legittimo, ma io, permettetemi, non riesco a capirlo, perché giusto il tempo di leggere dei titoli e già arrivano messaggi di questo tipo. Io, vabbè, continuiamo. La Repubblica, Grillo, due punti, tribunali per giornali e TV. E c'è anche questa, il riferimento alla reazione immediata del PD, toni fascisti. Il virgolettato, un altro virgolettato di Grillo, citato testualmente da Repubblica, e quindi che io leggo testualmente, dobbiamo punire le loro bugie. E poi c'è la notizia che il codice etico messo a punto da Grillo e poi sottoposto sul blog del Movimento 5 Stelle al giudizio dei militanti ha ricevuto, come avete sentito, un consenso del 91%. Però io sono andata a guardarmi i due numeri. Dunque, questi 41.000 voti, queste 41.000 persone che hanno votato, 91% delle quali hanno detto sì, sono 41.000 su 135.000 degli iscritti, quindi coloro che avevano diritto a votare. Perciò un terzo. E già questo direi che se lo traducessimo in un'affluenza nel mondo reale è piuttosto bassa. Ma soprattutto sono andata a vedere quanti furono i voti raccolti alle ultime elezioni, non le regionali, ma le europee del 2014. Il Movimento 5 Stelle raccolse il 21,13% dei consensi, pari a 5.807.362 voti. Se calcoliamo le persone che hanno votato sul codice etico su questa cifra dei votanti del Movimento 5 Stelle, siamo a meno del 4%. Quindi legittimo fare queste, sappiamo quanta importanza dia Beppe Grillo, desse l'altro fondatore Casaleggio e il figlio di Casaleggio allo strumento della rete, diamo anche noi la stessa importanza e centralità, però questi sono i numeri. Il codice etico è stato approvato da una percentuale calcolata sui votanti delle ultime europee del 4%. Passiamo al Messaggero, che come il Corriere della Sera si concentra sulla questione dei migranti e su questi ultimi sviluppi seguiti all'insediamento del nuovo ministro dell'Interno Marco Minniti. C'è, secondo il Messaggero, non soltanto queste mosse per accelerare i rimpatri, ma anche un piano antirivolta in tutti quei CIE dopo quello che è successo appunto in Veneto, ma ci sono stati anche dei disordini in Emilia. Come primissima mossa c'è quella di trasferire alcuni migranti dai centri dove ci sono state le rivolte, anche perché sono sovraffollati, però ovviamente non basta, è soltanto un cerotto su una questione che va naturalmente affrontata in altro modo, da qui appunto i vari piani, da una parte che si muovono su due fronti, quello interno cercando di migliorare, identificare le criticità nei centri esistenti, e dall'altra il fronte esterno, quello di costruire nuovi accordi per i rimpatri veloci. Sulla prima pagina del Messaggero una notizia per me veramente da mani sul volante, perché non lo so, questa questione di Alitalia mi ossessiona per la quantità di denaro che è stato versato in questo salvataggio durato decenni che però non si è mai concretizzato. Bene, ora Rosario Di Mito sul Messaggero di oggi ci racconta che è pronto un piano per l'ennesimo salvataggio di Alitalia, ma non possiamo neanche chiamarlo ennesimo salvataggio, forse dovremmo dire ennesimo tentativo di salvataggio. Questa volta vale 1 miliardo, sono 472 milioni tra bond e liquidità, e a marzo altri 590. La Stampa ha una fotonotizia molto particolare di una notizia che fa riferimento a una novità che viene da New York, che solo La Stampa sottolinea, ed è questa di una nuova linea della metropolitana, è la linea Q, la metro che unifica Manhattan. E così scopriamo che anche in America e anche a New York a volte i piani sulle metropolitane non sono così puntuali o così efficienti, o soprattutto i programmi di portare a termine i lavori, come magari ci aspettiamo noi che ci massacriamo sempre noi italiani sui nostri ritardi. A volte succede anche all'estero, pensate che era un secolo che si cercava di completare questa linea Q. Il titolo principale però, come per altri giornali, è sugli immigrati. Qui però viene visto da un punto di vista leggermente diverso: i sindaci attaccano sugli immigrati, il governo sbaglia. Naturalmente sapete che sono poi le autorità locali, i sindaci, i governatori. Avete sentito ieri a Radio 24 l'intervento di Luca Zaia sulla questione dei disordini in Veneto, sono poi loro che devono occuparsi materialmente di gestire questi centri di accoglienza, e quindi appunto bisogna, se non altro, ascoltarli. Il ministro Minniti, quando tornerà da Tunisi, credo che dovrà appunto vedere anche anche i vari sindaci e forse anche i vari governatori. Poi c'è un'intervista richiamata in prima pagina a Alfano, che da ministro degli esteri dice, anche lui parla di rimpatri, e dice: stiamo lavorando ad accordi con Niger, Libia e Tunisia per ridurre gli arrivi di migranti. Quindi non tanto degli accordi sui rimpatri, quelli ai quali starebbe lavorando il ministro dell'interno Minniti, ma accordi per non farli partire, che vuol dire naturalmente tutto e niente. La prima pagina dell'Avvenire, accoglienza e cattività. E il riferimento naturalmente è a tutto quello che ogni tanto si viene a sapere su questi CIE, cioè il problema del sovraffollamento, ma anche il problema delle cure non sempre disponibili, la quantità di medici o di infermieri che non sono mai sufficienti, come del resto non lo sono negli ospedali, e tutta una serie di altri problemi. E quindi l'Avvenire racconta rivolte, sequestro di operatori nel centro di Cona, perché c'è stato un vero e proprio sequestro, cioè le persone che lavoravano all'interno non venivano lasciate uscire. Poi dopo le trattative, per fortuna, è successo. Le associazioni che si occupano e le ONG che si occupano di ospitalità in modo spesso completamente volontario, non parliamo quindi delle cooperative alle quali sono affidate la gestione pratica, che sappiamo invece ricevono fior di rimborsi, e qui si aprono polemiche e soprattutto si aprono inchieste, due proprio sul centro di Cona in Veneto sono aperte. Però secondo le associazioni, molte associazioni, è un errore pensare di riaprire i CIE, che sapete è una cosa di cui si parla dall'inizio della settimana scorsa. La prima pagina del Giorno, a sua volta dedicata alla questione dei migranti, qui se Avvenire scriveva accoglienza e cattività, il Giorno scrive migranti, soldi e rivolte, operatori in ostaggio in un centro lager, quindi che appunto si ammette le condizioni che hanno contribuito in qualche modo sicuramente al degenerare della situazione, condizioni invivibili, così vengono definite, e anche tutti gli italiani che vivono intorno a questo centro dicono è un inferno. E però, come dicevo, c'è anche chi il Giorno si spinge a dire gli affari d'oro delle coop sociali. In ogni caso c'è chi anche dovrebbe retribuito e ben remunerato garantire invece una gestione dignitosa di questi centri. Ma la fotonotizia è legata a un fatto che una nuova legge approvata in Francia, si chiama il diritto alla disconnessione, infatti il titolo della fotonotizia è Disconnessi, i dipendenti possono spegnere telefono e PC. Naturalmente sono anche situazioni delicate, perché a volte noi abbiamo degli strumenti che sono aziendali, quindi bisogna trovare delle vere e proprie regole, oppure magari avere un doppio telefonino, uno che è aziendale, che quindi telefonino, tablet, smartphone, quello che è, e che resta acceso nelle ore di lavoro, e invece uno strumento personale che ovviamente di cui possiamo fare l'uso che vogliamo. Il commento di Roberto Pazzi si intitola L'elogio dell'assenza. Libero titola sulla questione dei migranti: profughi in rivolta sequestrano i guardiani, tra parentesi nessuno li punisce. Vedremo, può darsi che nei prossimi giorni ci saranno dei provvedimenti. La fotonotizia è dedicata a Paolo Di Canio, forse lo ricorderete, ieri ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera, dove si diceva pentito di alcune scelte, compresa quella di alcuni tatuaggi, uno in particolare, Dux, che addirittura ha provocato la rescissione del contratto che aveva con Sky come commentatore. E oggi commenta questa vicenda Vittorio Feltri, trovate il direttore di Libero, dopo l'inizio in prima pagina, poi la trovate a pagina 15, il titolo è Meglio fascista che ipocrita. Vittorio Feltri appunto è molto critico verso questa autocritica che ha fatto Paolo Di Canio. Il Giornale, invasione senza fine, sequestrati dai profughi, gli italiani sono al limite. C'è però un richiamo, collega la questione dei migranti, dei CIE, delle rivolte comunque alla strage di Istanbul, perché il sommario di questo titolo del Giornale è strage di Istanbul, una pista arriva a Modena. Come avete sicuramente sentito, tutte le ipotesi fatte finora sull'identità del killer della notte di Capodanno nel nightclub di Istanbul sono cadute, quindi si continua a cercare in questa caccia all'uomo in Turchia e non solo, si continua a cercare il terrorista. In prima pagina anche, ma anche su altri giornali, poi vedremo anche alcuni commenti, la notizia delle dimissioni di Carlo Verdelli, che era stato incaricato di riorganizzare tutta la parte informativa della RAI, dei TG, quindi, ma anche delle relative redazioni, ha presentato il suo piano, nessuno dei consiglieri gliel'ha approvato e lui si è dimesso. Ultimo flop di Renzi, così lo definisce il giornale, si dimette il super direttore. E poi un intervento di Alessandro Sallusti sulle uscite di Grillo che avete probabilmente sentito, ha chiesto, e qui, anche qui cito testualmente, un tribunale del popolo per valutare se giornali e TV e mass media in generale hanno raccontato delle bugie. E qui davvero proprio una questione di buonsenso, io non faccio nessuna divisione di categoria, sono anche arrivata al giornalismo tardi nella mia vita, insomma quando avevo 30 anni, quindi non ho neanche forse spirito corporativo. Ma come si può pensare che una giuria popolare giudichi per esempio un articolo che dà delle notizie mediche? Ci vorrebbe una giuria di medici semmai, oppure non so, un articolo scientifico e tra l'altro forse qualcosa sulle scie chimiche o altri miti trattati con un po' di leggerezza, diciamo così, da alcuni movimenti del esponente del Movimento 5 Stelle o naturalmente anche non del Movimento 5 Stelle, forse un po' di autocritica su questo bisognerebbe farlo, insomma è sempre difficile valutare al 100% la buona fede di una persona quando fa informazione, però nella maggior parte dei casi c'è, e questa istituzione di tribunali popolari è sicuramente un'idea che fa riflettere, ecco, diciamo così. Adesso vediamo come reagiranno gli ascoltatori del Movimento 5 Stelle. In realtà comunque volevo leggervi questa parte anche molto dura, senza mezzi termini, dell'editoriale di Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, che scrive: adesso che le inchieste giudiziarie e i fatti politici dimostrano che i 5 Stelle sono tutt'altro che il partito degli onesti, il Vate balbetta imbarazzato, il ballista Grillo si rimangia i dogmi e riscrive le sacre carte del movimento per non soccombere sotto la raffica di avvisi di garanzia per i suoi. È come fanno i mascalzoni, per salvarsi ribaltano la verità. I cattivi, gli immorali, siamo noi che non ci siamo mai piegati alle loro regole illiberali. Grillo vuole che i giornali scrivano la verità? Lo accontento, due punti, conclude Sallusti. Grillo, sei un buffone e non mi processerai, né tu né quell'accolita di cialtroni miracolati dalla storia che ti circonda. Ripeto, ho letto e naturalmente chi legge abitualmente il giornale sa che i toni sono questi e quindi insomma non ci si stupisce che vengano usati in questo caso contro Grillo, in tantissimi altri casi contro il centro-sinistra, ma a volte anche contro il centro-destra. È divertente la copertina della Verità, perché qui è la fotonotizia dedicata a una nostra di tutti noi italiani vecchia conoscenza, il senatore Scilipoti, che ieri ha annunciato con un giusto orgoglio di essere stato scelto per una commissione all'interno della NATO, e quindi un po' ironicamente la Verità, con una foto di Scilipoti in uno dei suoi atteggiamenti così diciamo un po' pittoreschi, titola "Il ritorno di Scilipoti ora rappresenta l'Italia alla NATO", però il titolo principale anche in questo caso è dedicato a quello che è successo ieri in Veneto: gli immigrati ci fanno la guerra, i capi della COP si fanno ricchi. Ci fermiamo però un attimo e torniamo subito dopo una breve pausa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e è vero, io forse mi giustifico perché mattina molto presto ho fatto i calcoli qui a mano, non ho la calcolatrice, addirittura quella percentuale che ho detto, 4%, 41.000 persone che hanno espresso il loro, 41.000 esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno espresso il loro parere sul codice etico, sui 135.000 che avevano diritto, sarebbero lo 0,4%, non il 4% dei quasi 6 milioni di persone che hanno votato per il Movimento 5 Stelle alle europee del 2014. Ma torniamo sulle prime pagine dei giornali. Ci mancavano il Manifesto, che titola "La nostra Africa", il gioco di parole naturalmente col famoso romanzo nonché film, romanzo di Karen Blixen e poi film con Meryl Streep e Robert Redford, "La mia Africa". Quindi qui "La nostra Africa", la foto è probabilmente stata scattata ieri durante questi disordini, e il Manifesto la racconta dalle pagine 2 alla pagina 5. Mette in prima pagina anche però l'aggiornamento sulla strage di Istanbul, che viene definita senza nome, Erdogan in crisi, e vedremo appunto che anche sui giornali ci sono approfondimenti su questo, perché forse una delle conseguenze delle purghe che ci sono state dopo il golpe fallito di metà luglio in Turchia, secondo alcune analisi che appunto vedremo, adesso mancano veramente nei posti chiave, nei ministeri chiave, persone che possano per esempio fare delle indagini serie su quando accadono fatti gravissimi come questo. Perché ricordo che nelle purghe ci sono finiti anche poliziotti, magistrati, parte del corpo militare della Turchia, tutte persone che Erdogan considerava nemici o pericolose per la sua permanenza alla guida della Turchia. L'unità migranti, la bufala dell'invasione, infatti l'unità torna su questo problema del famoso reato di clandestinità introdotto dalla legge Bossi-Fini e poi ricorda che se i 180.000 arrivi fossero divisi fra i comuni italiani, ogni città ospiterebbe 20 persone. Non so davvero come siano stati fatti questi calcoli, perché è ovvio che non si può prendere il numero totale dei comuni italiani e dividere dividere il totale degli immigranti per i comuni senza fare distinzione della grandezza di questi comuni. Comunque, la fotonotizia è dedicata invece a un'inchiesta che prosegue, che è quella su Rosarno, quella località della Calabria dove molti immigrati, ma non solo, sono sfruttati per i lavori stagionali, specie nell'agricoltura. L'inchiesta prosegue, anche quella giornalistica dell'unità, e chi li vuole senza diritti e tutele. E la foto è una foto veramente disarmante della tendopoli dei braccianti immigrati a San Ferdinando, vicino a Reggio Calabria. Ultima prima pagina che vi segnalo, quella del Fatto Quotidiano, che ha un titolo ancora diverso perché si concentra su un tema che è stato trattato anche nei giorni scorsi, ma che effettivamente, visto che siamo solo al 4 di gennaio, è giusto sottolineare tutte le nuove tasse, i nuovi balzelli che ci aspettano. In particolare il Fatto Quotidiano, che definisce tutto questo la stangata, bollette e caselli, cittadini rapinati per ingrassare le lobby dei partiti. Quindi anche qui molto chiara la posizione del Fatto Quotidiano fin dal titolo. Poi vedremo all'interno anche un approfondimento, e sentivo stamattina in replica a Cuore Denari prima di venire qui, se ne è parlato anche ieri a Radio 24, sugli aumenti soprattutto delle tariffe autostradali e questa discrepanza tra il fatto che sono aumentate moltissimo le entrate di alcune di queste autostrade molto trafficate, e ci si chiede come, allora, perché chiariscano anche i pedaggi, visto che se in generale le cose vanno bene, se è un anno in cui il proprio prodotto vende, in questo caso le autostrade, perché non ci debba essere un qualche vantaggio per le tariffe. Ma qui si tratta a volte di aumenti come per la Brebemi dell'8%, quindi a fronte di aumento a due cifre del traffico, quindi delle entrate, aumenta comunque il biglietto. Ecco, prima di collegarci con Mauro, che così torniamo sul Sole 24 Ore, vi segnalo un reportage di Gian Antonio Stella, che giornalista e originario del Veneto, come sapete, che è andato a vedere appunto questa struttura dove ci sono stati i disordini più recenti, quelli di ieri. La vita nel centro di accoglienza, in 1340 al gelo e appesi al nulla, nella contrada di sole 190 anime, perché appunto questo centro di accoglienza è vicino a un paese che ha meno di 200 abitanti. È un racconto, io vi segnalo, veramente consiglio a tutti di leggerlo, anche a chi sostiene la cosiddetta linea dura, perché bisogna veramente cercare di capire come si vive in questi posti prima di usare parole come è successo ieri a Matteo Salvini, che ha definito gli immigrati, soprattutto quelli che magari causano dei disordini, gentaglia che stiamo mantenendo, ospitando e viziando. Ma visto che comunque, insomma, faccio fatica a leggere e ripetere queste dichiarazioni, mi fa piacere invece dare la parola a Mauro, che torna un po' su temi più così, che forse suscitano anche meno reazioni emotive, che sono però temi economici, quelli del Sole 24 Ore. Buongiorno Mauro. Buongiorno Giulia. Allora, diciamo che noi, come hai segnalato, abbiamo come notizia più importante, quindi come titolo principale del Sole 24 Ore di oggi, una cosa che verrebbe da dire per fortuna non è successa, cioè Basilea 4. Adesso qui per farla molto molto semplice, diciamo così, si discuteva di un'ulteriore revisione dei criteri di solidità per le banche in tutto il mondo, sostanzialmente, cioè europee e statunitensi, e questa revisione però avrebbe comportato ulteriori necessità di probabilmente aumenti di capitale, non solo per le banche italiane, stiamo parlando di una questione globale, di una questione mondiale. Ebbene, tutto questo si è fermato, si è deciso di aggiornarsi sine die, vedremo, non si farà Basilea 4, cioè gli accordi del Comitato di Basilea, vedremo, ed è in un certo senso una notizia positiva, perché nuove regole sul capitale appunto avrebbero comportato presumibilmente nuove restrizioni sui bilanci bancari, e quindi poi un effetto a cascata anche sull'economia, sul credito, soprattutto in questi anni che non sono facili per il credito. Non so se la notizia, capisco che magari a quest'ora del mattino non è tra le più eccitanti, tuttavia è una notizia importante, infatti è la nostra notizia principale di oggi. Però ti voglio anche dire che ci sono due titoli interessanti che volevo anche collegare. L'uno lo trovi nelle pagine di Imprese e Territori, che vanno lette come sempre scrupolosamente, riguardano le previsioni di consumi per quest'anno nuovo. Le ha stilate il rapporto COP, le racconta Emanuele Scarci, e si prevede un anno abbastanza, diciamo, di sobrietà, per usare un termine elegante, cioè poca crescita dei consumi. Poi c'è un altro articolo di tal Giulia Crivelli, nelle pagine invece di Finanza, che vanno lette avidamente, un lungo articolo di tal Giulia Crivelli che pure ci spiega come il lusso, il settore del lusso e della moda, se riferisco bene, ma correggimi tu che sei abbastanza vicina all'autrice del ma io ieri non c'ero, non posso essere io. Va bene, ma io leggo questo sul Sole 24 Ore, non so se adesso si tratti di un'omonimia, di un parente stretto, di una parente stretta. E dice che il lusso crescerà, ma crescerà un po' meno del previsto. Quindi questo è molto importante anche in chiave, naturalmente, di aziende italiane, che sappiamo che il lusso, tu mi insegni, si potrebbe dire, cara Giulia, è il vero lusso italiano. Il lusso è un settore importante per noi italiani. Perché, guarda, diciamolo, insomma, anche i nostri amici francesi, quando devono produrre prodotti veramente di lusso, vengono a farli in Italia. Quindi è vero che la carta d'identità magari è francese, però poi è tutto fatto in Italia, scusate, ma tradisco in effetti che probabilmente sono io che l'ho scritto, e difendo sempre questo made in Italy così, così unico al mondo. Ah, quindi poi naturalmente su Italia-Francia ci sono sempre delle questioni, per così dire, dei media, anche oggi ne riferiamo in Finanza, appunto mi riferisco a Mediaset di Vandì, con anche però un'analisi che consiglierei di leggere, non è l'articolo da meditazione, sulle leggi, le regole che appunto ci sono per il settore delle telecomunicazioni, un contributo di Andrea Biondi, proprio a margine delle questioni finanziarie che riguardano il settore dei media. Lo trovate all'inizio in prima pagina, non è però l'articolo da meditazione, perché sai cosa consiglierei invece da meditazione, cara Giulia? Consiglierei un contributo di Claudio Tucci, che è andato a vedere qual è il tasso di occupazione di chi esce dagli istituti tecnici, che a volte magari uno potrebbe considerare, che so, istruzione superiore, ma un po' meno superiore dei licei. No, che ecco, poi è importantissimo, perché poi in questi giorni, no, bisogna scegliere, cominciare a fare delle scelte per i... Comincia infatti la stagione, insomma, delle scelte per la scuola superiore da parte delle famiglie, e per questo lo consiglio come articolo da meditazione, perché lì si vede che si arriva a punte di occupazione che vanno anche sopra il 56%. È chiaro che non siamo alla piena occupazione, ma se ci ricordiamo le statistiche sulla disoccupazione giovanile, che stanno sempre attorno, mi pare, al 40% o poco sotto in questo momento, ecco, avere invece un tasso di occupazione così alto forse può far meditare. Per questo lo consiglio come articolo da meditazione. Qual è il bisogno di persone uscite, di ragazzi usciti dagli istituti tecnici? Qual è il loro esito nel mondo del lavoro dopo il diploma? Ecco, questo articolo da meditazione lo trovi, cara Giulia, nelle pagine di Imprese e Territori, che tu leggerai naturalmente in modo scrupoloso, cioè scrupolosamente. Oh, ma veniamo per diciamo dulcis in fundo alle pagine che mi sono care, come sai, e che invito sempre a leggere religiosamente, e quindi sto parlando di norme e tributi, perché anche oggi ti parliamo di voluntari disclosure. Mm-hmm. Adesso non so se Peter ha il nostro amico Angelino disponibile, la voluntary disclosure, già te lo dicevo ieri, a volte uno potrebbe aver scordato, che so, di segnare. Cavolo ordini, mannaggia la puttana, spiegatevi bene. Ecco, allora la voluntary disclosure, giustamente Angelino dice spiegatevi bene, allora ci... Uno potrebbe essersi dimenticato di segnalare degli importi al fisco, anche degli importi in Italia, si chiama voluntary domestica, e allora bisogna fare dei conti però per capire quanto c'è da pagare come imposte, perché le sanzioni no, ma le imposte sì. E questi calcoli non sono semplicissimi. Lo segnaliamo il percorso anche oggi sulla prima pagina di norme e tributi. E poi prosegue, proseguirà anche domani e doman l'altro questo viaggio nelle novità della legge di bilancio, soprattutto per il 2017. Questa volta ci occupiamo di questioni molto importanti. Da una parte il welfare aziendale, sai, uh-huh, quei contratti per cui puoi avere, che so, l'asilo nido a sostegno delle dipendenti. Aiuti, mamme, per gli studi, no? Vi parlavamo di studi. Aiuti per gli studi, esattamente. Vedo che hai già letto allora norme e tributi religiosamente. È perché un mi tema stai, interessantissimo questo. Mi stai citando aziendale. Proprio la pagina 28, ma in pagina 29 parliamo dell'anno dell'ape. L'anno dell'ape, appunto, che è il nostro particolare anno secondo l'oroscopo cinese, anzi l'oroscopo pensionistico, è l'anticipo, come sappiamo, l'anticipo di pensione per chi ha 3 anni e poco al ritiro, alla possibilità di ritirarsi. Come funzionerà l'ape? Lo riassumiamo in questa pagina di approfondimento, sempre nelle pagine di norme e tributi. Oh, infine ti voglio dire che se per caso ti facessero una polizza RC auto in cui ti invitano a non rivolgerti mai a un avvocato, ebbene non va bene. Non va bene, l'ha detto la Cassazione, lo riferiamo pure nelle pagine di norme e tributi. È una clausola di tipo vessatorio. Un consiglio in malafede. Perché? E perché ti parlo di questo proprio così a ridosso della nostra interruzione? Ma perché naturalmente ti parlo di automobili, di RC auto, perché anche questa mattina, dopo l'interruzione e lo strappo della mattinata di ieri, invece torno al saluto abituale. Cara Giulia, cari ascoltatori, traffico! In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon mercoledì, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp. Ci vorrebbe una trasmissione intera o forse un incontro qui a Radio 24 per spiegare meglio, senza fare delle precisazioni così di fretta, a quello che ho detto. Due cose però voglio dire, in particolare a un ascoltatore che scrive: forse nemmeno voi vi rendete conto del disagio che la gente prova. No, le assicuro, mi rendo conto benissimo, perché sono io stessa a provare disagio a vivere in questo paese, anche se ho la fortuna di non avere problemi economici gravi come hanno tantissime persone. E l'altra cosa, l'altro ascoltatore che dice: in realtà tu dici che ti fanno schifo le dichiarazioni di Salvini, ma in realtà anche non hai le palle per ammettere di pensarla come Salvini. No, vi assicuro, io credo che noi che viviamo qui in Occidente abbiamo solo così, siamo qui per un incidente genetico, non abbiamo alcun merito a essere nati dalla parte, tra virgolette, giusta del mondo, e per questo, con tutte le giuste obiezioni del caso, cioè che chi non rispetta le regole di questo Stato o di un altro Stato europeo non ha diritto ad avere l'accoglienza, con tutte le eccezioni, però ripeto, accogliere persone che scappano da situazioni estreme di povertà o di guerra, io credo che sia un modo per riconoscere che noi abbiamo avuto la fortuna di nascere qui e tante altre persone no. Veniamo alle pagine interne dei giornali. C'è un dossier a pagina 19 del Corriere della Sera che rifà un po' il punto sull'inquinamento che in inverno in particolare colpisce molte città del nord. Aria inquinata, la maglia nera in questo momento va a Torino, Poi c'è anche chi in qualche modo cerca di aggirare un po' i divieti o di rendere la situazione meno grave. A Pavia, per esempio, sono stati dimezzati i limiti, gli sforamenti, e allora è chiaro che poi non vengono attuate delle misure se sulla carta vengono dimezzati gli sforamenti. Ci sono tantissimi approfondimenti su questa notizia che dicevamo del piano di informazione che era stato messo a punto dal direttore editoriale scelto e con questo incarico direttore editoriale per l'offerta informativa Carlo Verdelli, che ci ha messo più di un anno, ma poi ha presentato questo articolatissimo piano per riorganizzare l'informazione RAI e è stato bocciato da tutti i consiglieri e lui con grande coerenza si è dimesso. Adesso molti giornali spiegano che adesso a essere molto in difficoltà è Campo Dall'Orto, il direttore generale. Lo dice anche l'Usigrai, il sindacato interno della RAI, lo dice Anzaldi, che è l'esponente del Partito Democratico, che è a capo della commissione di vigilanza RAI. Insomma, vedremo nei prossimi giorni quali saranno le conseguenze. La Repubblica intervista Carlo Freccero, che è un consigliere di amministrazione della RAI, che da una parte dice spero che ritiri le dimissioni, e se per quel poco che conosco Carlo Verdelli non credo proprio succederà, e dall'altra dice è una riforma vecchia di chi non conosce la TV e non si è confrontato. A proposito di migranti, una bella intervista a un ammiraglio, la trovate sul Messaggero, l'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, che è il Force Commander di Sophia, che è questa operazione europea nel Mediterraneo, e dice noi siamo diventati l'incubo degli scafisti, siamo in mare tutto il giorno a caccia di armi, abbiamo consegnato alla giustizia 100 persone e distrutto molte barche, quindi questi personaggi orribili che sono gli scafisti vengono combattuti anche così con questa operazione europea di cui fanno parte tantissimi marinai italiani, anche appunto come l'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto e tantissimi mezzi della nostra marina. A proposito, tornando alla caccia all'uomo per l'assassino, il terrorista di Istanbul, sempre sul Messaggero quella che viene definita mappa del terrore, cioè con un riepilogo di quei paesi dell'ex Unione Sovietica che vengono definiti la palestra dei nuovi killer. Il riferimento è anche alle informazioni che erano state date ieri, cioè che si credeva che il terrorista fosse appunto venisse da una di queste ex repubbliche sovietiche, poi sappiamo che la cosa è stata smentita, però in realtà andando a guardare tutti questa scia di sangue, come la chiama il Messaggero, si vede che dall'appoggio ai talebani all'ISIS il jihadismo asiatico cambia obiettivi e l'asse di Putin con il ceceno Kadyrov spinge i terroristi verso Siria e Turchia. Un approfondimento a proposito di difficoltà che ci sono in Italia che mai mi sognerei di negare, dopo la crisi che sappiamo dura dal 2008 ma forse addirittura da prima, che ha messo in difficoltà chi già era in difficoltà e ha portato a nuove difficoltà chi magari fino a quel momento riusciva comunque a sopravvivere col suo lavoro, e quindi la stampa, l'Italia delle disuguaglianze, disabili, per esempio i disabili sono sempre più svantaggiati, abbiamo sentito tante notizie sul taglio al fondo che per esempio aiuta da una sostegno a chi deve occuparsi di questi disabili in famiglia o in strutture esterne, welfare debole, famiglia unico sostegno per oltre 3 milioni di persone, e questo si lega anche a quello che citavamo del welfare aziendale, perché oltre al volontariato che sappiamo il settore no profit in generale mette una pezza a tanti problemi, a tanti buchi che ci sono nel welfare italiano e poi c'è anche tutta la questione appunto del welfare aziendale che si sta sviluppando probabilmente anche perché le grandi aziende soprattutto quando i loro conti sono in ordine possono dare un contributo alle famiglie in tanti modi, appunto dagli strumenti per far studiare i figli anche ad alcune forme di assicurazione medica, ma ognuno poi appunto ogni azienda può mettere a punto il suo piano. Ancora tantissime segnalazioni dai giornali, vi dicevo la questione della stangata, come la chiama il Fatto Quotidiano, che ci aspetta per il 2017. e soprattutto si concentra sulle autostrade, con questo articolo di Giorgio Ragazzi che trovate a pagina 16. Il casello dalle uova d'oro, gli investimenti calano, corrono soltanto i pedaggi. E tra l'altro l'ascoltatore che mi diceva non è la breve mica aumentata, secondo i dati in realtà appunto è del 7,88, io avevo detto 8%, 7,88, e che è quella che è rincarata di più. Poi la Torino-Milano più 4,6, Torino-Savona più 2,46, la tangenziale di Napoli più 1,76%, la Brescia-Padova più 1,62%. Un altro sguardo sull'estero ce lo offre La Verità con un articolo di Aldo Forbice a pagina 14, sappiamo che ci sono ancora tantissimi paesi nel mondo che hanno la pena di morte, alcuni l'hanno e la applicano magari poco, altri ce l'hanno e la applicano molto, e uno di questi è l'Iran. In un solo anno 1000 impiccati, ma per l'Unione Europea gli affari sono più importanti. Il tema naturalmente è quello, e non riguarda solo l'Iran, che l'Europa, l'Occidente, o usiamo un plurale qualsiasi, facciamo affari con paesi che poi hanno una condotta sui diritti umani discutibile, ma appunto chiudiamo gli occhi. E da qui Aldo Forbice che ricorda: la Mogherini è andata a Teheran a ossequiare il regime degli Ayatollah, incurante dei dissidenti nel braccio della morte. Aldo Forbice, lo ricorderete, negli anni scorsi quando conduceva Zapping ha sempre condotto questa battaglia contro, per l'abolizione della pena di morte in tutti i paesi. Dalle pagine interne dell'Avvenire, visto che abbiamo parlato nei giorni scorsi di reddito di cittadinanza, che tra l'altro è una delle proposte fin dall'inizio, era anche nel programma del Movimento 5 Stelle, alcuni lo definiscono in un altro modo, ma comunque l'idea, che in Italia non c'è mentre in altri paesi sì, che ci sia appunto un reddito di base per tutti, e un esempio potrebbe essere la Finlandia, che lo sta sperimentando. A 2000 disoccupati che sono stati sorteggiati vengono dati 560 euro al mese. La novità è che chi troverà lavoro non perderà il sussidio, in questo modo l'aiuto e lo stipendio non sono alternativi. E poi veniamo ancora ad altre cose, magari un po' meno legate ai fatti di attualità. Sul Corriere della Sera Anna Meldolesi ci racconta la scienza in 7 idee. Ieri o l'altro ieri forse abbiamo visto quello che secondo un altro studio sono i lavori più a rischio per gli anni che verranno. In realtà lì l'orizzonte era molto più lungo, ricorderete per esempio appunto si ipotizzava la scomparsa dei consulenti finanziari perché tutti potremmo usare degli algoritmi e decidere come investire i nostri soldi, e altre possibilità. E qui invece la scienza in 7 idee, le teorie che cambieranno la nostra vita quotidiana nel corso del 2017, un progetto tra l'altro di un sito molto interessante per chi ama la divulgazione scientifica, che è www.edge, scritto edge.org, dove inventato da John Brockman un po' di anni fa, e vengono fatte ciclicamente queste previsioni. E per esempio una di queste 7 previsioni, c'è uno psicologo, Gerd Gigerenzer, che dice che la curiosità è negativa, strategia vincente. Secondo Aristotele gli uomini desiderano la conoscenza, fatti non foste a vivere come bruti, lo scriveva già naturalmente anche Dante, ma dovremmo ricordarci che esiste anche una curiosità negativa che spinge a non voler sapere tutto. L'ignoranza può essere una strategia di comodo, come quando camminiamo con gli occhi sul telefono obbligando gli altri a schivarci. Può preservare la suspense o ritardare le cattive notizie. Nel migliore dei casi è una via per l'imparzialità, e la dea della giustizia viene spesso rappresentata bendata, non scordiamocelo mai. Una bellissima storia, trovo, di un signore londinese che ha 85 anni e riesce ancora a correre la maratona in meno di 4 ore, che è un tempo per un non professionista direi ottimo. È originario di Londra, ma vive in Canada, dice: non vado dal fisioterapista, per tenermi in forma spalo la neve. Vi segnalo sulla questione della meningite, avete sentito anche sicuramente dei dati di fatto, cioè fanno molto effetto i casi di meningite fulminante, di persone che magari muoiono poco dopo il ricovero, e questi casi ci sono stati nei giorni scorsi, però meglio ricordare proprio i dati, cioè che comunque il totale dei casi di quest'anno è inferiore a quelli dello scorso anno. Questa pagina della Repubblica riassume un po' tutto. Paura meningite si intitola, però si dà voce voce agli esperti che dicono soltanto in Toscana è una vera emergenza, e poi ci sono tutti i consigli per dove vaccinarsi, in quali casi ha un senso vaccinarsi e anche in che cosa consiste questa malattia nelle sue varie forme, perché sono diversi i batteri che la possono provocare. A proposito di salute, credo sia una delle ultime segnalazioni che riesco a farvi, sempre dalla Repubblica, quello che viene definito da Ettore Livini un brutto affare, che è quello che riguarda l'insonnia, perché in Italia si stima che dormire poco e male riduca il PIL di alcuni decimali, quindi ci costerebbe il fatto che aumentano i disturbi del sonno circa 5 miliardi. Statistiche sempre molto difficili da fare, probabilmente appunto con degli algoritmi, però gli effetti più o meno diretti sono per esempio sul fatto che ci sono più incidenti stradali, perché il 7% è legato a problemi di sonno, e anche la mortalità aumenta del 12% per le persone che dormono meno di 6 ore a notte. Ultimissima segnalazione, questa è una bella notizia secondo me, viene dalla classifica delle vendite dei dischi in vinile nel 2016, pensate, quelli in particolare di David Bowie e di Beyoncé, David Bowie che è uno delle persone scomparse quest'anno nello scorso anno, gennaio del 2016, hanno riportato le vendite ai livelli di 25 anni fa, e dico che è una buona notizia perché comunque anche per i giovani magari provare il piacere di sentire la musica da uno di questi dischi è sicuramente un'esperienza in più. Era l'ultima segnalazione per oggi, grazie ancora a tutti gli ascoltatori, anche quelli più critici che hanno mandato messaggi, vi do appuntamento, vi auguro un buon mercoledì e vi do appuntamento a domani, lunedì, per tutti quelli che lo vogliono sapere, torna Alessandro Milan. Arrivederci e buona giornata da Giulia Crivelli.